lasciare e tutto si accumula. Scusa un attimino, tanto che mi stavo parlando verticale. Bene, e beh Fabri, hai risolto? Aspetta che do una cordata. Eccolo qua. Ci siamo. Ma tu? Guardami questo segnale, ma lo puoi attenuare? Ho detto, guardami questo segnale e tu mi dici se mi puoi attenuare nel caso per vedere la differenza tra una radio e l'altra. Vediamo se ce la passiamo, è importante, dai, guarda così, a vedere un pochino se mi ascolti ora. Ma è importante o splatter o qualche altra cosa? Ma deve essere vicino a te, perché adesso io sono in salita ma sto spingendo. Ah, allora niente, se vicino di più non posso fare, sono piccolino io. E avanti, fischio. Adesso prova a farlo con la bocca, che con cui ci sei riuscito. Imbecille che... Lascia fare, ferme. Già va bene, tu lo clippi, Alla grande, qua è basso. E vuol dire che non viene all'altro stanotte, quindi si deve giocare così. Va bene, tu dai, siamo qua. Adesso aspetto un attimino a Fabrizio e poi vediamo cosa esce fuori. D'accordo, ciao ciao. Fammi leggere il manual service, devo guardare una qua, allora aspetta. Va bene, sono qua, Sono rientrato, chi c'è rimasto? Nemico e Ciccia, ciao Robert. Ciao Tino, c'era poco fa, c'era Antonio, Manuele, Riccardo, vabbè, al telefono, e Fabrizio. Fabrizio, c'è ancora? Sì, sta operando però. Antonio sono andato e non so, Riccardo non l'ho neanche sentito io, quindi non c'era. Ma penso che niente, era al telefono con me poco fa. Ciao Tino. Ecco, ciao Riccardo, ciao. Ciao a tutti, è entrato anche Fabrizio, ciao anche a te che stai ascoltando. No, Fabrizio sta operando, stiamo facendo le prove tecniche di radio, quindi adesso aspettiamo che finisca e dopo ricrediamo il controllo. Questo Tino è il gemello mio, così. Qual è il rumore adesso? Cos'è il rumore? No, non ho capito. Tu vedi qualche rumore sotto? No, mia moglie che ha spostato la sedia, in cucina però. E ho sentito infatti un bombardamento, dove il cavolo è successo? No, ho detto, è il gemello mio questo. Non so cosa tu abbia. No, 44. No, io 45. Una bella radio, complimenti. No, adesso è bene, sono molto simili come modulazione. Sì, avevo 44 però l'abbiamo versato per prendere questo e mi piace di più, per dire la verità, però è limitato in watt. questa è l'evoluzione della lampada 4, c'ha gli indicatori a LED, no, è bello, esteticamente è più bello del 44, niente da dire, però tira di meno in AM, così è. Sì, sì, mi dà, boh, credo 70-80 watt, non di più, soffre da dei 100, magari da qualche picco, proprio tirato al massimo a 85-90, ma non credo che tocchi 100, non l'ho mai misurato, non mi interessa, questo va regolato così, a pochi watt, poi già va bene, già si alza da solo, quindi proprio che bene. Ah, no, la radio è bella potente, è corposa, e in ricezione ha notato differenze? Sì, un abisso, molto migliore questa secondo me. Attenzione 10, è stato sparato, prova Fabri. Ero geloso per quello che avevo pensato a Riccardino, sperava la vita di Roberto che è vita lì, e invece più di 50 non si arriva, allora l'abbiamo girato un po', e questa è bella, adesso tutti mandano un video anche con la mia, guarda, tutta la uguale a quella, uguale, va bene adesso, non è troppo alta, cosa sta succedendo? Ma questo è il mio parere, poi magari si conferma ad altri, per me è troppo alta, tende a, insomma, a fare la radio un po' incomprensibile da parte mia, io l'ho abbassato un po'. Sì, sto abbassando, non c'è problema, adesso posso abbassare, a me quello che mi interessava è che quando saliva in quella maniera come l'altra, dimmi come ti sembra, troppo alta, abbassa ancora? Leggermente abbassa ancora, hai migliorato tantissimo. Adesso ho abbassato ancora, vabbè, adesso dimmi quando va bene, che poi gli faccio un altro rito, dimmi quando va bene di radio. No, adesso l'ho abbassato troppo, alza appena. Ecco qua, adesso l'ho sollevata poco. Per me può andare bene così. Roberti, va bene così? Sì, però c'è sempre quel leggero saturazione, se lo abbassi un pochettino forse la parte mia è meglio. Ecco, abbassato un altro pochettino. Così è perfetta. Se risposto faccio l'ultima prova, aspetta, ci vediamo fra un secondo che mi vado su. Ehi, c'è anche Riccardo, avanti Riccardo. Ehi, l'ultimo passaggio stava andando bene rispetto a prima, mi piaceva più la modulazione. Mentre in FM come va il 45, Tino? E rieccomi, ecco dai, se va bene gli chiudo il cofano e me la rimetto a posto, che questa è la mia. Che quell'altra spingeva in quella maniera incredibile, questa invece era un po' più orfana. No, già va bene Fabri, va benissimo. Questo è il gemello di quello che avevi prima. Sì, questa è quella mia, che non spingeva, è come gli ho toccato leggermente per farla spingere più o meno come quella, là, che va meglio. E così spinge come quella, va un po' meglio. Adesso visto che ce l'ho, ne approfitto per fare una taratura dello smitter. 5 minuti, dai, faccio la taratura dello smitter e me la metto via, visto che ho tolto il cofano, almeno glielo ricontrollo, che ogni tanto non gli fa male. Ok, stavo dicendo Tino, in FM come va il 45? Bene, però devi fare delle manovre. Sì, va bene Fabri, ottima radio ora, va bene. In FM, praticamente se io passo in FM, devo giocarmi col carrier, se no, vabbè, in locale magari mi potresti anche sentire, però più lontano non dà gli stessi dati della M, capito? Mentre invece se gioco col carrier, allora riesco anche a dare 100 watt. No, perché 44 se tu passi dalla M all'FM arriva a piena potenza, devi attenuare, mentre lì è il contrario, con 45. Sì, qua devo dare il rap in AM e poi se vado in FM per dire devo giocarmi col carrier per poter rialzare ulteriormente, capito? No, ho capito. Ok, riesce bene in FM. No, qua puoi fare una prova, adesso però non metto a fare niente, ma già mi sento lo stesso, allora vai in FM. Oh, Robè. Thank you. Eccomi. Ecco qua. Invece così è, diciamo, il suo watt da 10 watt poi modulati va quanto può andare. No, no, già si sente la differenza, cavolo, se si sente tra l'AM e FM. Sempre chiara in FM, però è come una c'ha il processore inserito e l'altra no, la differenza è quella, però in AM è molto più corposa, più piena, dai. Riccardo, avanti a te. Ehi, ho sentito che stava andando bene anche in FM, però a quanto ho capito questa radio fa uscire pochi watt. Riccardo, sono radio di vecchia generazione fatte per altri scoppi, però già ti ascoltiamo bene, forte e chiaro, non ti preoccupare. Quell'altra, se dovessi prendere il passaggio superiore, vedi che qualche differenza si noterà, è anche più comoda da utilizzare, eccetera. Penso proprio, va bene, Robè, un attimo che mi stanno chiedendo di aiutare a fare manovra. Vai tranquillo, non ti preoccupare. Ok, Fabrizio, sei ancora? Oh, attimino che mi prendono un qualcosina da bere che c'ho 7. Ok, facciamo una chiamata su 10 generale, vediamo se Capri c'è ancora. Attenzione Capri, Rabuloso, se ci sei batti un colpo. Bene, ci andiamo qua, Riccardino stava facendo manovra al padre, spero che non ci sia nessun altro, forse è Fabrizio, vediamo se ha terminato. Ci sei Fabrizio? Ti stavo facendo come mai, stai facendo così basso, perché poc'anzi ho attenuato in FM. Sto uscendo basso io? No, ho detto, ti stavo per dire, come mai sei così basso? Perché poc'anzi in FM ho attenuato, no? E mi sono dimenticato di togliere l'attenuatore. Perché questo in FM spinge di una mala sorte, molto più che AM. Lo so. Ma anche questo già si è detto di fuori le unghie. Quello che stava usando Fabrizio era spaventoso, mi ha fatto vedere il video, da 5 arrivava a 9,40 con i picchi, cioè quando parlava, il mio non ci arriva così forte. Cosa avevo io sì, spingeva forte, lo stesso, però l'ho fatto perché avevo sempre l'idea di cambiarlo e poi mi trovo una sorta di occasione, questo è immacolato, questo è nuovo, e la vetrina è come se fosse comprato a negozio, poi tramite un amico che ho su in continente, ci ha messo la faccia lui, si è occupato tutto quanto lui del tran tran, quindi ho fatto di tutto per vendere il mio, l'ho venduto insomma anche bene, nonostante tutto aveva un piccolo difetto, però ho fatto l'affare, diciamo, vendendo uno e prendendo l'altro. Non è quello qua di Sassari che stavano vendendo a 5,50 con l'MPC60 e la cosa, l'alimentatore, autoparlante? No, anche quello era buono, perché lo conosco personalmente, un grandissimo amico di mio padre anche, me l'ha proposto anche a me, ma ormai l'avevo già fatto io la cosa, però l'ho pagato molto meno io. Quello era da prendere al volo per cosa tirava e poi magari venderti singolarmente per dire il 60 o l'autoparlante esterno, vediamo 60, almeno 60 euro proprio se lo vuoi regalare, se no anche 70 euro lo puoi vendere. E l'autoparlante una 50 di euro si vende, l'alimentatore glieli vuoi dare altri 80 euro, per cui il valore c'era la grande. Sì, ma questi sono, diciamo che cosa che prendo io, ho preso io. Ma dalle 4,50 alle 5,50, io l'ho preso 3,80. Com'è così basso? Tramite un amico. Ma dico, uno non sapeva il prezzo o se ne voleva disfare, cos'è? No, è una sorta, insomma, una radio amatore, una serie di PVL, ha preso la patente da poco, volevo migliorare e andare sul digitale, tramite questo amico che io sono in continente, si è messo lui e ha barattato, diciamo, capito. E quindi se hai venduto il 44 lo vendi sui 400, per cui sei andato alla pari, diciamo. Diciamo, ho venduto un po' di meno 400, però mi è andato bene lo stesso, dai. No, a me quello che mi colpisce, cacchio, che c'è gente che spende soldi per il Aran 48, 400 euro, 4,5, non parliamo di prezzi che ci sono anche, ho visto anche 700 euro, vabbè, sono cose da pazzi, ma c'è gente che ci spende 350 euro per un Aran 48 modificata, anche se mi dirai ci vuole un po' di lavoro, ore di lavoro, eccetera, eccetera, però cacchio, a quel punto ti compri un apparecchio superiore, io la vedo così. Vabbè, quella è una scelta di vita, nel senso che anche io sono del tuo parere, ma non come si dice, non metto in negativo le scelte degli altri, perché uno ci può anche stare, dice cazzo, vabbè, compro un 48 per dire la scheda doppio modulatore costa tutto, fa cifra, non è che il lavoro c'è, per carità, però chi lo può fare? Lo può fare chi va su una barra pesante perché magari vuole gettare spurie e quant'altro, vaganti, perché sappiamo benissimo che il 48 esce bene in radio, ma la ricezione proprio fa cagare, quindi io ne ho due, anzi ne ho tre di 48, uno l'avevo anche regalato. Se lo metto in stazione fissa va bene, perché va bene, però gli spattere sono come dolori, cazzo, chi ce la si tiene, quindi ne prendo un bel quello. Sì, sì, no, lo so, no, ma c'è sempre una cosa bella, finché mi dice l'uso sul camion per stazione mobile, va bene, cioè ti fai sentire con l'eco digitale, tutto quanto, niente da dire, però c'è gente che spende soldi e se lo tiene in casa, dico, a quel punto ti compri, tanto l'Ofio 1 e l'Ofio l'altro, a quel punto fai il salto più grande e ti compri un apparato superiore. Vabbè, lo sai, io non so dire, ma togli l'eco perché è brutto, a me io accetto tutto, non mi interessa, perché ci sono le persone che lo utilizzano, ci sono le persone che usano il lineare, a me sinceramente io sono aperto un po' a tutto, anzi forse sono il primo a se una cosa la devo operare, quindi non me ne frega niente del parere degli altri. Anche io ho fatto la scelta di adoperare un 48, 120 canali, super elaborato, però poi ho visto che effettivamente c'era quello nel 10, l'altro nel 23, o nel 20, mi dava fastidio, quindi ho preso l'ho conservato e ne ho preso un altro più selettivo. Per dire, a me piace uscire nel 27, adesso lascia perdere un'eccezione oggi, però questa qua faccio tutte altre cose, magari più ascolto perché è più selettivo tutto quanto, io nel 27 utilizzo l'HR5005, è molto più amplificato, molto più spinto, molto più tutto, mi va bene così. Sì, sì, però dico, se sei in appartamento, in condominio, e metti uno di quei baracchini lì, secondo dovresti... Allora, scusa, mi sta suonando il telefono. Fabri, vabbè. Eccomi qua, ce ne sono 10? Fabri, sono sempre qua. Perfetto, eccomi qua, adesso lo rimetterà nella sua postazione, vediamo un po' se sta andando tutto bene, spegniamo la luce. Che stavo parlando in verticale con mio figlio. Fai. No, fatto. Prima a vedere se hai migliorato, adesso hai l'altra, la tua. Sì, la mia, l'ho solo aperta perché volevo che si comportasse come l'altra, no? La mia, quella lì sì e la mia no. Geloso, Va bene, Fabio, va bene. Per me, ti ripeto, puoi abbassare leggermente ancora, ma di poco, proprio leggero. Ho dato un puntino in meno. Perché sennò tendenzialmente è un po' a strappare, ma niente di che, è sempre comprensibilissima la radio, però c'è quella spinta in più che la vera non dovrebbe averla, capito? Ho capito. Vabbè, poi dipende anche da come parla, se non allontana anche un po' il microfono, se lo tengo lontano e via. No, perché l'altra l'ho finita, l'hai vista quell'altra? Sì, sì, bella. Ma quella è sempre la tua? Sì, la mia. Guarda, mi trovo impreparato adesso. Aspetta. È uscita bene, anche di coperchi, ecco. E come le altre? Aspetta, Beh, sono scappati tutti. Se sono le 10? Chi è? Va? Ciao Giovanna. Ah, ciao Giovanna, ben sentita. Aspetta, ti sento male, fa un altro passaggio perché ti ho sentito un po' maluccio. Avanti di nuovo. Come va? No, già va bene, già ti sento. No, ti ho sentito un attimino un po' pernacchiosa, diciamo, sembra forse ero io che ci avevo qualcosa. No, già ti ascolto bene, già va bene, da parte tua invece. Bene, dai, a casa. È un po' di caldo c'è oggi, adesso sono alla stanza della radio, mi sto sciogliendo l'altra camera mia, invece c'ho l'aria condizionata, di lì l'ho già accesa più di un'ora, perché quando arriverò di lì dovrò coprirmi, perché sennò mi fa male. Di lì a casa tua ce n'è caldo. Sì, c'è il condizionatore d'aria e qui c'è, sta benissimo, anche la sera c'è un filo d'aria proprio, è produttiva. In camera letto c'è il ventilatore, quindi va bene, sono più tranquilli. No, ma là, ho preso anche un altro di quelli raffreddatori che ci metti l'acqua, però si è portato in camera mia figlia, infatti lei se lo sta godendo lì, ma l'avevo preso per me, lei te dammela a me, adesso ne salirò un altro da officina, quello del camper, e me lo metto qua la sera che c'è troppo caldo. Ecco, fai bene. Riccardino, avanti. Ok, grazie Giovanna, per il mic, buonasera anche a te e a Roberto, sono tornato. Sì, tornato, davvero, vabbè Riccardi. Vediamo un po' se c'è qualche donato, perché io mi hanno chiamato al telefono, ero continuo, poi ho ripreso, non c'era nessun altro. Attenzione 10, chi vuole entrare in compagnia Roberto, Giovanna e Riccardino. Un attimo di bianco, vediamo se c'è qualcuno, se lo riprendi tu Giovanna. Misba, vai tu, a te il mic Giovanna. Riccardino, a te come va? Da me? A chi altri ne conosci Riccardino? Cosa Roberto, non ho capito, non c'è il cane abbaiando, cosa? Ti ha detto come va Riccardi e tu, a me stai dicendo, perché altri Riccardini ci sono. No, ho sentito Riccardi che ce l'ha sovrana abbaiando il Doberman. E stavo dicendo sì, qua si sta bene almeno. Che sono fuori. Mi sa che c'è un po' di caldo, ieri non si poteva stare anche oggi, meno male siamo andati al mare e mi sono fatta, se no non ci riuscivo. No, la gente era, siete andati lì? Gente era poco, calma. Vabbè, è sempre lì. Ma quello voglio capire, voi il camper, la cellula dove lasciate? Dove c'è il bar, in quel piazzale del bar o su in alto? No, hai presente dove c'è il bar, poi devi fare la salita ancora, devi farti la salita e poi c'è uno spiazzo per il camper. Sì, no, io ci vado spesso di lì, no, pensavo che magari la notte per stare un pochettino più illuminati, dai, più sicuri, però gente ce n'erano, altri camperisti c'erano. Beh, cos'erano? Tipo una decina di camper c'erano, la spiaggia sembrava sentino, era piena, con la gente era Cristo. Già ce ne va di gente. La gente ha il problema che adesso ci sono le forestali e non vogliono fare camping, non vogliono fare entrare più a nessuno, l'anno scorso hanno messo una marea di multe, speriamo che siano più tolleranti con questo sindaco nuovo, con quello che abbiamo adesso, che siamo più tolleranti rispetto a quello dell'anno scorso che è andato a fare cassa. Ok, vai Giovanna, te vai. Tu, non c'è più. No, sono qua, sto ascoltando per, stavo organizzando ventilatori e il resto con la tonella. Ah, c'è anche Antonello, dai. Saluta. Ciao Caruccio, tu sì che mi camminetti. C'è anche Daniele, ciao Roberta. Ciao. Ciao Daniele, parla più piano che parli troppo veloce tu e poi non ti capiamo. C'è l'amico tuo Riccardino, te lo rilancio, avanti Riccardino per Daniele. Ciao anche a te Daniele, l'ho sentito l'altro giorno quando stavo chiudendo una spiaggia parlando. Ciao. Ciao. Riccardi, così eri tu all'inizio, una macchinetta, adesso piano piano, una voce tranquilla, tanto non ti sta seguendo nessuno, ti fai capire che non c'è bisogno di stare. Ok, chi c'è altri qua? Buh, non c'è nessun altro, vai a te di nuovo Riccardo. Ho sentito da lontano, perché ho un po' di lume alto, stavo dicendo, cioè, ho sentito anche che stavi chiamando a casa, era entrato qualche giorno. No, era entrato Claudio, che era il ginetto, stava andando benissimo con un portatilino, era 9 più 5, attaccato 9 più 15, poi di colpo tac è sceso a 7 e poi da quel momento lì è scomparso. Spero solo che siano scaricate le batterie del portatile, perché se ha fatto danno mi dispiacerebbe. Ok, vai di nuovo a te Giovanna. Che poi di diritto mi sembra una cosa, che qua si come, una volta che entra, dura 10 minuti poi sparisce. Altri 3-4 giorni sistemeremo con l'antenna, una settimana poi se ne scende altro in bocca. Ma io sono arrivato, io vado a caso, a muro, li prendo il baracchino, glielo cemento, gli faccio un blocco, cacchio, e glielo metto cementato, tipo, perché così non lo tocca più, gli faccio una colata di resina, di vetro resina, di quelle con le a caldo, dico tu non toccare niente, devi solo accendere l'interruttore dove ce l'ha presa, non toccare niente, perché non è possibile, ogni volta cacchio, sembra tutto a posto e poi l'indomani viene scendere qualche pezzo. E poi dobbiamo pigliare tutti gli apparecchi suoi, mettere dentro un come si chiama? Un candeliere, li portiamo dentro la chiesa, il giorno del candeliere gli facciamo dare la benedizione, almeno da posto, perché sembra bestemmiato sempre. Infatti cazzo ogni volta mi dispiace perché c'ha tanta passione, un bravo ragazzo, poi educatissimo, e poi cacchio ci sono questi problemi qua. Come dice qualcuno, no tocches, per ricordo Riccardo, cosa ti dicono a te? Che tu sei peggio di lui. Me. Già lo so, me lo dice il signor Sovre, il signor Sovre, che all'ascolto lo saluto e mi dice no tocches. Quello che vuoi. Oh, tu Antonio sei peggio di lui, no, non scherziamo neanche con te. Io non è che sono peggio di lui, io questo ricordo che posso la roba mia a casa di mia sorella, come fatto. Infatti lei c'è il microfono mio, il macchino mio, sta usando il con le scatomila con questa versa, io sto usando invece il palmare, capito? E invece le informava un altro, cioè si dire no perché. Forse va a finire nello scaffale, quindi c'è metà della fabbricatura sono mie che sono qua, compresa anche l'antenna, cavo, alimentatore, tutto. E allora sei rinfaccende così, Antonio? Non sono rinfaccende, anzi sono contento di rispettarmi la roba mia sorella, la verità, ci mancherebbe, anzi. Quello che compro io per me è come se lo comprassi per me. C'è anche la magnetica che noi l'ho presa per usare la macchina, non la conosciamo. Via. Ok, vediamo un attimino se qualcuno vuole entrare, se no prendi tu Riccardo il mic. Nuda, vai Riccardo. Ok, riprendo. Sta mancando un po' di gente adesso. C'è caldo, inizia a far caldo la sera, anche io infatti qualche minuto mi sto sciogliendo, qua non ho niente per raffreddare, mi sa che ne salgo anche io qua dentro un ventilatore, nell'altra stanza gli ho dato a mia figlia il raffreddatore in camera da letto, cioè ho l'aria condizionata, non ci sono problemi, però qua ci stiamo iniziando a sentire il caldo e ci sono la bolletta di 29 gradi. Oh, Robè. Dicami tutto. Ti volevo dire, ma tu col camper ci mandi a zona di Portoferro? Sì, tante volte, perché? Perché non siamo rimasti tutto il tempo all'Argentiera, praticamente siamo andati all'inizio eravamo a Porticciolo, e vabbè, con gli amici al mare, e niente, lì non mi è piaciuto perché ci sono fatto questo, il campeggiare è brutto, e poi siamo andati non c'è gente che porta solo per dormire, bisogna Portoferro, era pieno di camperisti, non ce la facevamo, poi quindi siamo andati zona Porto Conte e abbiamo dormito lì e poi l'indomani mattina siamo andati alla gente. Sì, anche Porto Conte è bello. Io molte volte andavo a Calalupo, che prima non ci andava nessuno, proprio un posto sperduto, perché c'è una spiaggetta costruita diciamo dal niente, hanno buttato un po' di sabbia, adesso se ci vai è pieno di gente. Io parcheggiavo lì nel piazzale, lì poi c'è una specie di residence che ha le piscine, ci sono due belle piscine grandi, intrattenimento e tutto, che tra l'altro adesso si paga un po' di soldini, prima io la trovo gratis i primi anni, poi hanno iniziato a far pagare, l'ultima volta si pagava un po' di soldi pure a persona, però l'acqua se sì, arriva al mare a pochi 50 metri dal mare c'è l'acqua salata, la piscina bellissima, l'acqua è proprio limpida, pulita, e la cambiano continuamente perché è acqua di mare, infatti non mettono neanche cloro né niente, è un posto stupendo, quindi ti metti un angolino e si sta bene, però l'Argentiera è bello lo stesso, a me piace tantissimo, poi ti metti anche quando c'è caldo c'è sempre una brezzolina, ti apri un po' la finestra e va bene, oppure anche a Fiume Santo si sta bene, però non ci sono alberi. Ho capito, deve essere bello, ma non con la macchina, non so se ci arrivi. Mi hanno parlato bene il Calacristallo che c'è il parco. Ma dove, a cosa? Appunto al Cristallo? Stai parlando della zona di Alghero? Sì, zona Alghero, quelle, quei tutti. Non lo so, il bello di lei è che nella strada andando, come si chiama, la Speranza, la Platonalia, andando verso Bosa, ci sono bellissimi posti, c'è un posto per i camper comunque, e lì tra l'altro puoi anche volare, lo sai, perché c'è una collinetta e ho visto qualcuno facendo parapendio. Ho capito, quindi il prossimo posto in cui andremo a campeggiare sarà lì. È proprio di fronte all'accoso, al mare c'è un parcheggio di camper, non è neanche troppo lontano, sarà su, penso, 5 km dal Ghero, 6 km, diciamo è carino, l'acqua è tutto roccia, tipo l'argentiera, simile come morfologia del terreno, però è bellino, se uno poi piace pescare, di lì ti puoi fare anche la pescatina. Ho capito, sì, si può provare, visto che abbiamo le camere. No, no, parlo anche per Scarciuba, però tieni presente, io d'estate vado tutt'altra parte, io faccio tutta la costa orientale, da scendendo giù da Olbia in giù, tutto San Teodoro, tutto fino ad arrivare giù a Coso, Calagonone, quelli sono i posti più belli in assoluto. Antonello, riprendi! Dimmi tutto! Riprendi, cosa ti racconti? Tu esci in camper, in campeggio, no? Svegliato a casa? Il campeggio, me lo faccio a casa, faccio una casa al garage, una casa a casa, mi piace la tenda, la campeggio. Ho capito, tu ti costruisci il fortino sul divano. Sono nel casato lì, la sorella, come ho fatto un'altra volta, ho messo la tenda da campeggio e ho dormito fuori, sai come si stava bene, a fatto le zanzare. Ma fuori senza tenda? Ah, no. Ma cosa cappella? La cappella, no, mi sono messo davanti alla rete, capito? La rete con letto e mi sono collegato fuori. Ma dove è questo? Che cazzo, la mezzoletta. A parte che la mattina poi c'era il sole e zanzare. Insomma, come mai il cazzo in attacco militare, Le zanzare, bisogna stare attenti. Poi adesso ci sono, cacchio, che sono di dimensioni un pochettino pericolose. Io adesso quando pungono a te, sai che pungono, se prendono il coronavirus lo passano a te, non hai capito, sei fregato. Ah, ma l'ho già preso il coronavirus, muoiono le zanzare se mi pizzicano, hai compreso? Ok, facciamo un attimo secondino di bianco, vediamo se è rientrato qualcuno, se no riprendi tu Riccardo. No, non c'è nessuno, buonasera, prego. Ti ho letto nel pensiero, ebbene, aggiustatela questa radio. Ce l'ha presa Riccardo con la radio che gli ho detto io, quella che poi a te ti ha aumentato il prezzo. Ah, l'ha presa il ragazzo! Capito, era da prendere al volo. Quanto tra l'altro? 25, Fabio. Devo venire a quattro occhi, che era che non viene bene, perché volava 25, io ci stavo rimanendo male, una cosa strana. No, allora, a me mi ha detto prima 30, ha detto, guarda, se me la dai 20 te la prendo, poi ha fatto la tua fottenza, no, aspetta, anche chi l'ha detto, con l'antenna tutti e due 25, aspetta che chiedo, c'era il sapientone, gli ha detto, no, 15 l'antenna e 25 la radio, ho detto, ma la radio 25, e se non funziona, cosa mi prendo, una scatola vuota, la posso, no, non ho voglia di attaccare la scatola, ho detto, beh, tieni il dita, gli ho detto, poi, c'è andato tu, comunque stavo guardandola bene su internet, l'ho cercato quel modello lì, non è brutto, ti posso dire, anche come cosa, ho visto i valori, è discreto come valore con la radio. La macchinata a 230 euro, non so nemmeno chi c'è in ruota, se mi trovo in Italia, Ehi, c'era anche Giovanna, perché Antonello sta trasmettendo da casa di Giovanna. E quanto tra l'altro, in fin dei conti, poi Fabio? 25, però ti ha chiesto di più anche a te? No, mi ha chiesto, la prima cosa che ha fatto, mi ha guardato e ha fatto, va bene 25, ma così, ma funziona? Sì, che funziona, ok, va bene 25, E non gli hai chiesto se hai fatto la prova? No, non è un problema, è comunque ripararla. Sono provato a ripararla, non ci sono riusciti, perché la Grundig ha un sistema particolare, quindi quello che era una soluzione particolare, praticamente, veniva anche a aprirla, capito? Dunque non ho gli altri circuiti, devi fare tutto un lavoro particolare. Io ho imparato la parte di un farlo, però non si è abituato a quelle razze, quindi... Fabio! Buonasera, comunque gliel'ho chiesto, a me ha chiesto 35 euro. Ma la sera è vestita. Ho detto la sera, è arrivato un po' così. Ho detto la sera, sì, guarda, va bene, se mai la sera c'è, no, perché non si deve dire, no, adesso mi voglio dire, voglio parlare. Buona, molto lieta, arrivederci, anche noi ti vederci. Ho preso in giro, l'ho vista, l'ho guardata, se vuoi farla di Marta Tech, di attivare il pompo. L'ho preso, ho fatto la casa, perché non c'era nessuno, la signora mi fa, va bene, 25. Oh, ormai. Dimmi Eric. Comunque se Fabio ha guardato con l'antenna, non vedi che fa altre frequenze? Fabio, per caso tu l'hai vista con l'antenna, quella che stavamo parlando in tanti? Ma quale? Quella che c'era? Quella con una spirale. Ma cazzo, secondo me è così con l'antenna. Ma l'ha detto, l'ha vista Gianni, l'ha vista Babbo, l'hai vista tu? E tutti e tre abbiamo detto che non è per la 27. Non lo so, la parte un po' piccola, sarebbe la fare oscillare per come si comporta. Probabilmente non è per la 27, è 144, non lo pare di altro. Sicuramente, anche Babbo diceva 144. Comunque, l'hai vista quella che stavo dicendo che si assomiglia a nessuno al panattino? L'ho vista, quella era bellina, aveva i bordi in legno, per quello era bella. Sì, sì, ma è un modello famoso, è uno dei primi grandi produttori della Grundig, combinati, no? Perché c'era Tolera, pure Magianati, uno dei primi combinati, e ha una meccanica particolare. Quella ha un difetto, siccome è molto in gomma, non ha cigni e quattro cigni, o un cigno, c'è tutto il resto di gomma. C'è la possibilità di spendere un po' di caldo, un po' di troppo di freddo, poi la fine di fuori che deve cambiare tutte le gomme che si trovano. Ci sciolgono, si marciscono, già lo so. Esatto, anche quelle due lì erano di qualità, eccetera. Molti fisici invece, anche nelle 80, c'erano raccontato delle cose, io ne ho aperto uno, ho trovato tutti questi coriandoli arancioni, non capivo cosa fosse, erano le ruote che si erano polverizzate. Ehi, dimmi una cosa Fabio, ma poi l'hai provata a accendere? Sì, campa non accenderla, ci ho messo un po' per dire il problema. Ma adesso funziona? Sì, sì, funziona, è volata, bellissima. Funziona bene, ma tra l'altro è un po' più difficile per adesso, diceva bene, sono le cose, sono le lunghe, è quello che mi interessava più che altro. Ho messo un po' anche la piazza, mi fa piacere, ho messo l'accidere quando poi l'ubrificazione, e gli ho dato anche una mezza pulita, perché va tutta riaperta, tutta pulita e ripulita, capito? Tutta un po' giocata di giocata, di contatti, eccetera. Insomma, può tornare nuovo, ma anche fatto ripartire l'orologio. E l'orologio, infatti, ti volevo chiedere, anche l'orologio funziona. L'orologio non andava, vabbè, anche quella è una cosa che sono abituato. Cassatine, contattini, l'alimentazione, hanno un problemino su una piccola resistenza, per si bruciava sempre, insomma, cose che conoscevo già. Adesso va, però sicuramente, cioè, la prende uno per attaccarci la spina, funziona una cassina. Fabio, ho un dilemma. Io sto chiamando alla tua casa e non mi rispondi. Già sta caricando il telefono, adesso lo vado a prendere, adesso la scarico, là, ho fatto qualche caricatore anche. Riprendilo, ciao Antonio, tra l'altro. Ciao Fabien, come va? Tutto a posto? Tutto a posto, a voce molto bella, a seconda di come sta distante dal microfono. Oggi c'è una bella voce, fatti sentire. Lei c'era tutto, ma è innamorato, ciao mamma mia. Sono tutto innamorato, ho detto mamma mia, con questa voce bella che c'è un mamma. E vai bene tu, Ugo. Ma vabbè, bene tu, Ugo, ti tocchi la mano. Ma che via, d'accordo. Adesso un paio di minuti vado via anche io, dai, che qua c'è troppo caldo. Ma non, Antonè, non d'accordo, d'accordo. Non te d'accordi, lo sai dove monte d'accordi. E da un po' di lungo. Non d'accordi, d'accordo. Ma quello dice da così, d'accordo, d'accordo, Alice, d'accordo, non c'è problema. Chi era quello? Paolo Falcone, la buon'anima, che già c'è ancora, purtroppo. E io. Ho capito, non d'accordo, mi. Cazzo, andavano in pizzeria assieme. Con chi, con Falcone? E io. Quindi eri amico intimo. lavoro, io non l'ho mai conosciuto e non credo di aver mai perso niente. Meglio niente da quel periodo qua. Facevamo gli oggi in pizzeria, che avevamo tutti i cibi. Lui pagava, noi mangiavamo, la faccia sua. Ma perché aveva soldi qua? Il figlio di Miccolis, il marmista era. 150.000 lire alla volta portava. Gli portavamo il resto 10.000 lire, neanche 5 a volte. Buttava tutti. Ah, quindi era benestante, non lo sapevo questo fatto qua. Ok, quindi l'ha conosciuto anche tua sorella, lei era vecchia CB, non è così? Sì, facevo le lunghe grasse per telefono, soprattutto quando era innamorato. Ma come si comportava con le donne questo qua? Perché dice era mezzo pizzicato, vero? Sì, ma si comportava bene come ero piccolo. Dico, era educato, non diceva parolacce, perché diceva molto maleducato lui. E quando si rabbeva già diceva le parolacce. Allora, quindi era un personaggio, dai, lasciamo perdere. E vabbè, per quell'epoca lì sì, però stava molto a modo quando parlava con me. Va bene, meglio così, dai, quello che ti dica, perché ho sentito un sacco di storie, ma ho fatto sentire anche un paio di registrazioni, qualcuno ci aveva le registrazioni, ha fatto e se le ha conservate, però doveva essere un bel personaggio, dai, sinceramente con me non è che poteva legare più di tanto. Vabbè, ma molti lo prendevano in giro, le facevano le pernacche, giustamente uno su questa rabbia, no? Poi ci rimaneva anche male, le soffriva a me, le soffriva molto, aveva un buon cuore. Oh vabbè, ci sono anche gli imbecilli che ne approfittano, sicuramente le persone ignoranti in quel caso, perché se vedi che c'è anche dei problemi a quel punto o lo eviti oppure non lo so. Vedi la mamma che ascoltava, perché lui la tarda stava con le cuffie a parte senso, ma stava anche fino alle 4 del mattino, parlava anche da solo. Mi hanno raccontato, dice, poi quando stava parlando, stava il passaggio duravano tre quarti d'ora, non dava tempo a nessuno di parlare. Beh, infatti ci spostavamo tutti in un altro canale. Eia, poi lui continuava a parlare, ma era convinto che lo stesse ascoltando e poi non c'era più nessuno. Si passava molto su 40 lui, eh? Vabbè, prima era più frequentata la frequenza, per cui già c'era di gente, magari qualcuno in più c'era rispetto adesso. Già adesso ho notato in questi giorni che è iniziata la temperatura estiva, un sacco di gente se ne sta andando per fare altre cose, ed è giusto che sia così. Prima poi c'era il coronavirus e qualcuno la sera la passava, me compreso, in casa, per cui adesso inizieranno già un po' a diminuire le persone, già anzi sono già diminuite. Vediamo se Riccardino c'è ancora o Fabio, uno dei due avanti. Luda, riprendi, trova ancora te o Antonello o Giovanna, uno di voi due, a voi il mic. Hai entrato Luca? Luca. No, sono Luca. Vabbè dai, io mi allontano un attimino che c'è un nipotino da controllare. I pulcini da controllare? Nipotino. Ah, ho capito, i pulcini, ho detto cavolo, c'hai le galline in casa. Ok, non ci sono problemi, dai, io aspetto due minutini se rientrano, se no chiudo anche io. Vai Antonio. Ripia, dimmi tutto, sono un capoletto e stavo giocando con cosa? Con il pulcino piccolino. Ehi, dice c'è un nipotino, ma è piccolino, quanto tempo c'ha? 2 anni c'ha. Ah, quindi non è proprio piccolino, pensavo fosse più piccoletto, parlavo di qualche mese, 5-6 mesi pensavo. No, 2 anni c'ha. Il cavallello Mellello! Vieni con me, zio, vieni con Mellello! Come si chiama il bambino? Giulio. Giulio. Giulio, adesso mi parla parlare parla che lui si fa le pernacchie a casa. A tutti. Eia. Adelante, compagnero. Comunque con la radio ho visto la valutazione ed è discreta, lo sai Fabio. Ma abbiamo detto, l'ho vista in alto a 230 mi pare. Sì, no, sono ricercate, e vai a comprare satelliti, quello che c'ho io. Infatti uno me lo stanno tirando, una persona, dai dammelo, no, ma me lo tengo, no. Va bene, l'ho detto, se ne hai due, no? Se tu la detta quello che c'è per te, diciamo di non tenerlo, io. Ah, ma è perfettamente funzionante, la radio è, non ha nessun difetto, è perfetta. L'unica cosa è che c'è l'antenna, ne manca l'ultimo pezzo dello stilo, ma la radio è perfetta. Anzi, ti posso dire, per certi versi è anche meglio dell'altra, esteticamente no, è migliorata, però forse l'altra, ho l'impressione mia, non lo so, forse come funzioni, funzionalità, come ricezione, forse qualcosina. Vabbè, però bisogna fare i confronti con la stessa antenna, dai. Sì, ma basta che ti sposti di pochi centimetri, cambia completamente l'intensità del segnale ricevuto. Ho visto questo qua, ho mandato un video, c'erano 8 radio e stava ricevendo un segnale dalla mi pare Slovenia, era in Alta Italia, e ha fatto il confronto, tra cui c'era la Sony, 3 Sony c'erano, siti di questo genere di radio, c'erano 3 Sony, una Grunding, una l'altra che cacchio, una decina di radio, e ha fatto le prove e c'era, alla fine il risultato la migliore di tutti, la Grunding come radio, però poi alla fine uno ha scritto, ha detto attenzione che cazzo, qua in questo momento però se mai risposto di posizione la Sony la mette a posto della Grundig, magari in quel momento lì riceve meglio la Sony, perché basta che giri appena l'antenna, erano tutte una a fianco all'altro, una vicino all'altra, però la vicinanza con un'antenna vicino, con una cosa di bobine, di un campo di cosa, di bobine interna, possono darti dei fastidi. Secondo che salgo su e mi prendo la casa 2 minuti da che c'era, così almeno. Andiamo dopo, datemi 5 minuti, a fate. Vabbè, tanto io vado via, ti saluto adesso Antonio e poi tanto non mi troverai sicuramente. Ok, no, Fabio, quella cosa devi fare, devi dare una bella lavata, proprio pulita, sgrassata, perché è un bel pinghinoso, però la radio è bella, guarda, poi l'ho detto a te, ci stavo facendo un pensierino, io ho detto gira, vale, me la prendo io, poi ho detto no, l'ho detto a Fabio, gli interessa a lui, se la prende lui. Mi sarebbe dispiaciuto se andava a finire in altre mani, perché per 25 euro si può prendere tranquillamente, che vale molto di più la radio. Eia. Sì. Già lo so, ma l'hai sentita funzionare in FM quella radio, quella che stiamo dicendo? Sì, funziona bene, sempre con la solita, questo è il discorso del direttore di Rubik, questa la F5 ancora, però non lo puoi togliere, invece non lo puoi togliere F5. No, è bella, proprio una bella, poi c'ha quelle maniglie che sono uguali alle mie, non so se di dimensioni sono più grandi o più piccole la mia, no? Diciamo più o meno sono uguali, ma come concezione è bella. La cassetta sei riuscito a farla funzionare? Sì, forse vabbè, sotto il volante, dedicato là, pulito tutto, fino a quello pubblicato e richiusa, però qua si muovo di aperto, non è che pulita anche la meccanica, come va bene le ruote. Fatto che venga fuori perfetta, la batteria è fuori, la ricezione è fenomenale. Allora, la griglietta, se poi voi se c'è difficoltà, se tu la porti smontata, tu gli hai scritto a Grunding, gli diamo una sfumata di nero opaco e ritorna nuova. Anche io l'altra che c'ho un pochettino rovinata, adesso ci hanno appoggiato qualcosa, però se vuoi tu la porti smontata, tu gli hai detto dovrebbe avere una specie di vellutino per proteggerla un po' la polvere, ma la porti, gli do una sfumatina di nero e ritorna perfetta. Io li lavo, lo so con cosa, con lo spruzzino utilizziamo o il sapone di Marsiglia oppure un liquido non concentrato, in dosi non concentrate, quello che utilizziamo per pulire motori, parti porti sporche di grasso, ma ti fa le cose lucide, pulite, pulite. Le ha una spruzzatina e poi li passi un cotone tutto sopra, stando attento alla plastica e cose così, non esagerare se è troppo concentrato, e ti ritorna, ti toglie tutto lo sporcizza, quelle unto che c'è sopra. Sì, ma dove? Penso che sia anche più recente di qualche anno rispetto alla mia, anche se è una stessa linea, rimane molto vicina come linea. È bello, mi piace. Sto dicendo, l'ho detto a te, se no me l'avrei ripresa io per 25 euro, poi me l'avrei magari fatta sistemare o sistemata io se ci riuscivo. Ok, una bella radio, poi tiene valore, vedo che tengono molto mercato, hanno un ottimo ricevitore, hanno anche delle memorie, non so quante ne avrà, una decina, quante ne ha memorie? No, no, ce l'hai tassini, per memorizzare stai dicendo. Per memorizzare la rotellina? Sì, sì. Ma ho capito bene qual è adesso, ero un pochino che fosse un'altra. Ma perché non te l'ho mandata la fotografia? Sì, sì, adesso però ero un pochino che fosse un'altra. Perché qui hanno la rotellina, non vedo multimedia, vedo i media che mi hanno mandato, vedo con lo sguardo. Dove? No, la foto non è andata, roba. Però è descritta, aveva fatto un'idea della satellite in diretto, però la foto non è andata, mi ha mandato la foto della Grunding, e così era un finish questo, no, questo qui invece non fare giù. Mi ha mandato la foto invece non fare giù. Eccola qua, sì, sì. Però basta, ho capito qual è. Ho capito la conoscono che adesso ho già fatto da bene, e diverso anche da che pensavo. Questa comunque rimane molto fuori, giusto? No, non è mono, aspetta, lasciami vedere. No, è peggio la mia. Aspetta, ci deve essere scritto da qualche parte. Batteria FC. Minimo. No, perché ci sono. Sì, no, c'è stereo, c'è un altoparlante disegnato e due altoparlanti sotto, è stereo la radio. Allora, sinceramente, a meno che non sia mono, divida gli altoparlanti per dire uno te lo fa larga banda e utilizzi solo un altoparlante, perché c'è un interruttore che c'è, è disegnato un altoparlante e poi sotto due, probabilmente intervengono, magari è mono, non lo so, non insisto di questo. Allora, se senti lo metto, c'è la versione stereo, della radio ed è molto simile a questa, molto simile, però aveva l'orologio portato, era in alto al posto del controllo della batteria, e dall'altra parte aveva l'altoparlante e aveva il controllo della batteria e del segnale. Tra l'altro queste radio che sto vedendo mi sono potuto alimentare pure con un sacco di caricabile. Sì, no, è costruita bene, sto dicendo, una bella radio. Poi c'è una ricezione spettacolare. Poi trovare una radio con le bande laterali, ti sfido, dell'epoca di questi radioni qua, non ne trovi. Sono pagata a 700.000 lire, stiamo parlando negli anni, fine anni 70 questa radio, inizio anni 80, adesso non mi ricordo esattamente, 78 o 81. Felipe. Avanti Riccardi, dai, così vi saluto che mi sto sciogliendo qua dentro, se non mi va di male, vado direttamente nell'altra stanza io. Dimmi Riccardi. Che vi saluto, raga, che vado dentro adesso, che sbaracco tutto e ci sentiamo. Adesso, dopo, forse dopo provo a fare una prova da dentro casa, a vedere se sto andando, se va sempre bene. E io dai, adesso vi saluto anche io, dai, che qua non ho niente per raffreddarmi, mi sono preso mia figlia. Ok, saluto di nuovo Riccardino, Antonello se c'è, Fabio, Giovanna e tutti gli eventuali amici qua sul canale 10. Io faccio un corretto definitivo, ci sentiamo eventualmente domani se ci siete. Ciao ciao a tutti. Ciao, ci sentiamo domani. Buono a tutti, buon tutto. Io ho fatto dei lavori di oggi. Così, tanto per studiare delle cose che si trovano dentro il campo. Ci vediamo domani, dai. Ok, ciao a tutti, buona serata. Fabio, fai una cosa, dopo che ho mandato la foto a Roberto, fammi una battuta. Scappa, aspetta che mando queste foto qua, da com'era a com'è. La differenza di com'era all'inizio e di come è uscita. No? Me lo farei vedere poi più avanti. Comunque adesso spengo, aspetto la tua bassa. Capa, aspettiamolo un po'. Aspetta, vediamo se è diventato. Bello. E Giovanna? Giovanna? Lei la fila. Vabbè, posso fare così. Riccardino. Fabio, ci sì. Fabio.